Allora, il titolo dell'incontro di oggi nel pomeriggio è Contro la repressione delle lotte di difesa economica e sociale. L'occasione è l'ultima tornata di repressioni che, come vedremo più avanti, ha anche diciamo, una connotazione leggermente nuova rispetto alla tradizionale repressione alla quale le lotte sociali vanno incontro. Ho qualche appunto da leggere e commentare sostanzialmente. Non vogliamo ripetere la cronaca dell'inasprirsi degli episodi di aperta persecuzione poliziesca, giudiziaria, mediatica, abbattutisi sui lavoratori che conducono coraggiose e necessarie lotte di difesa economica fuori e contro il sindacalismo istituzionale. Questo è già il primo dato. L'ultima ondata di repressione è una repressione, per quel che riguarda la condizione del proletariato, molto mirata. Sono le prime avvisaglie di lotte di resistenza che vengono catturate e represse. Si abbatte anche sui sindacalisti, soprattutto del SICOBAS, che li organizzano, perché anche questa è una cosa importante. La repressione ha gli occhi ben aperti, no? Come si suol dire, la fortuna è cieca ma la sfiga ci vede benissimo. In questo caso la repressione ci vede bene, va ad individuare quei settori del sindacalismo che una volta si chiamava di base, ma che adesso bisognerebbe chiamare con un altro termine, con un altro nome, che in ogni caso è riuscito a intercettare e a organizzare questa resistenza proletaria in quel settore ben preciso. E soprattutto la repressione si abbatte anche su tutti coloro che, come noi, hanno espresso la loro solidarietà attiva operante alle lotte. Appunto, una caratteristica relativamente nuova è che questa ondata di repressione si abbatte anche su tutti coloro che hanno espresso una solidarietà non parolaia, ma attiva nei confronti dei lavoratori, ma anche di altri settori sociali, come vedremo, che hanno osato e osano alzare la testa. Questa solidarietà noi la esprimiamo a tutti quei militanti che per l'occupazione delle case e dell'abitazione e degli spazi sociali, per l'opposizione alle devastazioni dei più diversi territori, per l'aiuto umanitario che prestano ai migranti, subiscono la medesima repressione. La caratteristica è che questa repressione, mentre le resistenze sociali sono isolate, in realtà allarga e va a beccare tutti quelli che alzano la testa. Dobbiamo fare una piccola precisazione, ma che è estremamente significativa. Noi la solidarietà l'abbiamo espressa e continueremo a esprimerla anche quando ci sono delle abissali differenze politiche tra noi e gli elementi e i militanti che vengono colpiti dalla repressione. Una cosa che abbiamo notato partecipando all'assemblea che è stata indetta dall'ala politica del SICOBAS a Roma più o meno 15 giorni fa, proprio sul tema della repressione delle lotte, è che la maggior parte dei partecipanti, indipendentemente dal mondo del sindacalismo, ciascuno portava la propria esperienza di repressione. C'era qualche cenno alle repressioni più note, soprattutto all'ultimo arresto della rappresentante del Notav, ma in realtà nessuno collegava. E noi, quando abbiamo espresso solidarietà, tra virgolette, non abbiamo guardato in faccia a nessuno. Siamo andati a Torino quando hanno sgombrato l'asilo, che notoriamente era un centro sociale anarchico e anche di quell'area anarchica, politicamente abissalmente differente da noi. Ma in questo momento, e soprattutto per quel che riguarda il tema della repressione, il passo avanti che si deve fare non è la sommatoria delle lotte, ma è proprio cercare di capire che effettivamente, se cominciano a colpire un qualcuno, è perché indirettamente vogliono impedire ad altri di muoversi. Quindi per noi, ripeto, rispetto all'aspetto della repressione non facciamo distinzioni, anzi cerchiamo di sottolineare il fatto che proprio questa repressione picchia dura. C'è un'altra questione da ricordare rispetto alla repressione delle lotte sindacali in senso stretto. Qua per molti settori di movimento, per molte avanguardie di lotta o ex avanguardie di lotta, è come se ci fosse una sorta di amnesia storica. È comprensibile che militanti che abbiano 40, 30, 20 anni non ricordino e non possano sapere che cosa è successo in quelle che ormai sono le mitiche mitologiche lotte del 68-69. Sembra che a quei tempi, come dire, ci fosse uno sfondamento generale rispetto alla repressione dello Stato e che tutto fosse permesso agli operai in lotta. In realtà non è vero, nel senso che anche in quella tornata di lotte operaie vennero attuate le medesime forme di repressione, perché il famoso articolo del Codice Civile che riguarda la violenza privata, che è quello che viene utilizzato per reprimere i picchetti, è stato utilizzato anche e soprattutto in quella tornata di lotte. Certo, c'è una differenza che è quella che poi ricorderemo meglio, che è quella del numero e della forza, nel senso che anche a quei tempi non decine, ma decine di migliaia di proletari, di operai, di sindacalisti, di militanti, studenti, chiunque, tra virgolette, avesse partecipato a quel tipo di lotta, ha subito la medesima repressione. Però la forza del movimento, da un lato, e le mediazioni del riformismo, dall'altro, hanno fatto sì che quella repressione rimanesse congelata. Questo piccolo dato teniamolo lì e teniamocelo a mente, a memoria. Un'altra questione importante a proposito della solidarietà e della repressione rispetto agli altri movimenti è quello che, ripeto, non coinvolge direttamente la classe operaia in senso proprio, militanti comunisti in senso altrettanto proprio, ma è una repressione che è effettivamente gravissima, che è quella che stanno subendo quegli anarchici legati al cosiddetto movimento anarchico insurrezionalista, che si sono fatti generosamente coinvolgere dal movimento del Notav e che si sono esposti in prima persona con delle azioni che sono, da un punto di vista tecnico, militare, politico, assolutamente simboliche e per certi versi ridicole, ma che lo Stato ha interpretato addirittura come attentati terroristici, banda armata, per cui in questo momento in Italia, nella democraticissima Italia, ci sono almeno 25 persone che sono in galera per avere fatto cazzate, tipo dare fuoco a un radiatore, con l'accusa di banda armata, associazione per delinquere, e soprattutto si sono beccati il famoso articolo del 41 bis, che è l'articolo che era stato inventato per reprimere la mafia. Il fenomeno non è solo italiano, anche questa è una cosa che dobbiamo ricordare sempre, nel senso che non è lo Stato, il governo italiano che ha questa impennata autoritaria. Il medesimo autoritarismo è diffuso soprattutto con la scusa del cosiddetto terrorismo arabo-islamico in tutta Europa e oggettivamente in tutto il mondo occidentale. Nella piccola Grecia, mentre noi contiamo decine di militanti più o meno incarcerati per questioni politiche, sono quelle notizie del Lusco e il Brusco, ci sono almeno un migliaio di anarchici che sono in galera e non si sa quando è che verranno la luce del sole. Ripeto, noi non siamo anarchici, ma la questione della solidarietà e della repressione coinvolge tutti. Questa è una cosa che purtroppo altri militanti di altre organizzazioni tendono a sottovalutare. La questione è assolutamente politica, ovviamente, perché questa repressione è solo una espressione particolare di una più generale condizione di servitù economica, di subordinazione sociale, di oppressione politica organizzata tramite lo Stato dalla classe che organizza, sfrutta e trae vantaggio e beneficio dallo sfruttamento della nostra forza lavoro, dalla borghesia. Qui è un'altra cosa che dobbiamo ritornare a centrare, perché la questione della repressione non è una questione, tra virgolette, di ordine pubblico, di qualcuno che vuole tutelare un ordine civile, no. Qua bisogna ritornare alla radice della repressione. La repressione militare giuridica è una repressione che è l'espressione della condizione di oppressione politica che vige in ogni società divisa in classi, nelle quali società lo Stato non è un organo di mediazione, ma è l'organo attraverso il quale si organizza la dittatura di una classe su tutte le altre. Siamo nel 2020, dal 1789 la borghesia vince, trionfa e instaura il suo dominio, ed è da quel momento che lo Stato, gli Stati, si organizzano come macchine repressive per difendere la classe sociale di cui sono espressione, e nonostante tutte le balle di tutto il riformismo possibile e immaginabile, la repressione non è un incidente di percorso, ma è una caratteristica fondamentale dell'organizzazione sociale nella quale stiamo vivendo. E poi facciamo anche un'altra notazione rispetto a questo tipo particolare di repressione. Mentre nei periodi in cui l'economia è al culmine della sua espansione, lo Stato può tollerare una lotta rivendicativa, anche radicale, e utilizza per il suo controllo lo strumento del sindacalismo istituzionalizzato per contenere i bisogni dei lavoratori, mantenerli nel quadro delle compatibilità dell'economia nazionale. Anche questa è una cosa che, perlomeno da rivoluzionaria, è importante ricordare. È importante ricordare perché riassume tutta un'esperienza di lotta economica che comincia da quando la classe operaia nasce, quindi dai primordi del 1700, passando nelle fasi eroiche dell'Ottocento e nell'età dell'imperialismo. I proletari, sia come singoli individui che come masse organizzate, hanno sempre cercato di vendere al meglio possibile la propria forza lavoro. Nelle fasi iniziali della storia del sindacalismo, lo scontro diretto col padrone, con lo Stato, in condizioni di vita e di lavoro assolutamente ignobili, assumevano una connotazione certamente politica, ma financo rivoluzionaria, anche perché la borghesia non aveva ancora capito come contenere lo scontro. Man mano che la borghesia consolida il suo potere e soprattutto la sua espansione dal punto di vista della struttura economica, in un certo senso è costretta a scendere a patti con gli operai. Il suo interesse è pagare il meno possibile, ma comunque pagare. E quindi ha bisogno di una contrattazione in modo tale da stabilire, appunto, con l'istituzione di una mediazione statale, delle norme per cui la dittatura e lo sfruttamento economico vengano, come si dice, mascherate, o meglio vendute attraverso l'illusione che lo Stato e la nazione fanno l'interesse di tutto, per far vedere che comunque anche i proletari, tra virgolette, possono stare bene e hanno tutto da guadagnare nel vivere senza rompere troppi coglioni. Questa è, tra virgolette, l'utopia della dittatura della borghesia. Ma la borghesia non può governare il processo economico, perché è anche essa espressione di determinazioni che non sono nemmeno le sue. Il ciclo economico non è uniforme. Ci sono delle fasi di espansione, delle fasi di crisi, e all'interno di queste fasi il prezzo generale della forza lavoro subisce delle oscillazioni, e nella parte di avanzamento, di prosperità, nel culmine soprattutto delle prosperità economiche, la borghesia ha bisogno di forza lavoro ed è anche disposta a pagarla meglio. L'ultimo grosso ciclo, il mitico ciclo delle lotte del 68-69, soprattutto in Italia e in Francia, ma a cascata in tutto il mondo economicamente, tra virgolette, sviluppato, è anche una dimostrazione di questo. La forza rivendicativa può essere tollerata, ma e deve essere soprattutto irrigimentata. Tu puoi concedere miglioramenti economici, scale mobili, pensioni, assistenzialismi che variano a seconda della lingua e dello Stato e della borghesia nazionale particolare, proprio perché la crisi economica è in espansione. Questo è, come dire, è uno dei dati di fatto e dei dati di fondo che fanno sì che il sindacalismo, la lotta di rivendicazione economica sia assolutamente necessaria e doverosa, è il terreno sul quale sviluppare un'agitazione rivoluzionaria, ma non è il terreno dello scontro politico immediato. Questo lo possiamo leggere sia se, tra virgolette, sposiamo una causa sindacalista, sindacalisteggiante al 100%, oppure se, come i nostri ex fratelli, cugini e compagni di battaglia comunista, riteniamo che l'organizzazione sindacale sia comunque una trappola, perché anche quella è una versione dell'economicismo, cioè ci si illude che se non ci fosse l'ingabbiamento sindacale la lotta economica avrebbe immediatamente uno sbocco politico. Le questioni sono molto più complicate. Teniamole lì, come al solito, come un piccolo mattone. Quindi la funzione del sindacalismo istituzionale, sottolineato istituzionale, quindi con tutta la storia malefica delle CGL, delle CISA, delle UIL, delle Confederazioni Generali del Lavoro francesi, le trade unions e chi più ne ha che ne metta, è quello di mantenere lo scontro economico nel quadro dell'economia nazionale. L'organo dello Stato che è deputato all'uso di questo strumento, il sindacalismo è uno strumento, è quello dei partiti borghesi che si spacciano per rappresentanti degli interessi dei lavoratori e limitano e deviano l'energia potenzialmente eversiva delle lotte verso l'illusione di riforme che possano migliorare per sempre la condizione dei lavoratori salariati. Ecco, qua entra la politica con la P maiuscola, quindi la reale forza e la reale debolezza del movimento operaio e in conseguenza del movimento rivoluzionario e dei partiti realmente comunisti. Siamo nel 2020, la borghesia ha una capacità di imparare a gestire il potere che è mostruosa. Nel 2020 vuol dire che si sono ripresi dalla sberla che hanno preso nel 1917, che a momenti li mette KO, ma purtroppo non è stato così. Quindi quell'esperienza, quel trapasso tra la fase liberale e la fase imperialista ha dimostrato che la borghesia, diventando sempre meno un'associazione di padroni, ma diventando sempre più la protagonista di un capitalismo che diventa sempre di più un capitalista collettivo, trasforma e usa lo Stato e i suoi organi in una maniera nuova. È in quel trapasso in cui la necessità di reprimere veramente in senso politico l'esperienza rivoluzionaria internazionale fa scoprire l'uso della socialdemocrazia e del riformismo. Se nel 1848 ci poteva essere l'illusione che accanto al Partito Comunista potessero esserci altri partiti operai che lottavano per il potere, l'esperienza della Comune prima, del 17 dopo, della lotta all'interno della Seconda Internazionale tra il riformismo che creava un'illusione di una trasformazione pacifica, le sinistre socialdemocratiche, le esperienze della rivoluzione hanno dimostrato che questo riformismo in realtà diventava una delle forme migliori, un organo dello Stato borghese per irregimentare e tenere sotto controllo le potenzialità rivoluzionarie del proletariato nazionale e internazionale. Quindi la questione del sindacato, cioè dell'organizzazione di rivendicazione economica, si intreccia con la questione fondamentale della lotta tra proletariato rivoluzionario e borghesia. Ma mentre il proletariato rivoluzionario fatica a organizzare il Partito Comunista, la borghesia fa prestissimo a utilizzare il riformismo come strumento di dominio e di oppressione della classe stessa. Un'altra delle tesi fondamentali della sinistra comunista si trovano confermate. Il terreno della rivendicazione economica, e noi lo dovremmo allargare anche alla rivendicazione sociale, non è un terreno di immediato scontro politico, ma è un terreno nel quale si deve agire uno scontro politico per la gestione della rivendicazione economica e lo sviluppo dell'autonomia della classe operaia in senso proprio, non nel senso degli anni 70. Il terreno economico, l'organizzazione sindacale da cui che dal terreno economico può nascere, diventa in questo caso un terreno di scontro tra i rivoluzionari e le forze della conservazione, proprio perché il terreno della lotta economica è così importante per allenare il proletariato all'antagonismo politico. Da queste, come dire, da questi paletti non si può sfuggire. Ecco, un'altra questione è che, come dire, abbiamo parlato fino ad adesso di una lotta economica sindacale in una fase in cui l'economia cresce, lo sfruttamento della forza lavoro permette la redistribuzione di parte del profitto, la metto così in una maniera semplicistica, e quindi in quel momento di culmine dell'espansione economica in cui la borghesia gli sembra di andare a gonfie vele per sempre, si riesce a strappare un qualche cosa. E questo, come dire, fin dai tempi di salario, prezzo e profitto, è, tra virgolette, stato sufficientemente analizzato. L'illusione del riformismo è trasformare questa conquista economica in una conquista politica per di più permanente, e questa è la funzione oppressiva di creazione di illusione di falsa coscienza, molto concreta purtroppo, del riformismo nella fase di espansione economica. Ma l'illusione dura poco. All'espansione segue la crisi, da cui il capitale, adesso analizziamo solo l'aspetto economico spicciolo, non tutti gli aspetti della crisi, da cui il capitale pensa di uscire riducendo all'osso il costo del lavoro ed intensificandone lo sfruttamento. Questo, ripeto, è ridotto all'osso, perché è chiaro che poi sulla crisi pesano anche altri fattori, ma quello che interessa al padrone, inteso come sommatoria di gestori di azienda, è che, porca vacca, c'è la crisi, non guadagno più niente, che cosa devo fare? Aumentare la massa del capitale e premere il più possibile il capitale variabile, pagarlo meno e possibilmente averne meno, perché essi sono miopi, non sanno che il profitto si crea aumentando il capitale variabile e non viceversa. Ma lasciamo perdere l'idiozia dell'economia borghese. Quello che ci interessa a noi è che in quel momento ricominciano le legnate. Tutto quello che era stato strappato e concesso viene ripreso con gli interessi. E per di più fioccano i licenziamenti, proprio perché la crisi ha anche questi aspetti strutturali di ristrutturazione. Alla fine di ogni crisi ci abbiamo la concentrazione del capitale, la concentrazione dei mezzi di produzione, l'illusione borghese di, come dire, moltiplicare i profitti perché aumento la produttività, metto la tecnica, e per dirla in parole ultra povere, rimanendo alla nostra stupida taglietta, nel 1975, da un punto di vista della metalmeccanica, quante acciaierie esistevano? Qui siamo a Milano, avevamo tutto Sesto San Giovanni, avevamo l'espansione nella zona del Bresciano. Oggi che cosa rimane? Rimane qualcosa in provincia di Brescia, e in ogni caso tutta la produzione dell'acciaio che veniva fatta in tempi pre-crisi è concentrata in quella che una volta si chiamava Italsider, a Taranto. Questi sono gli aspetti strutturali dei cambiamenti della crisi. Ma questo cosa vuol dire? Vuol dire che se prima ci volevano 10.000 operai, adesso ce ne bastano quei 1.500 lì. Questo per fare un esempio. Quindi è così che picchia la crisi. Ma se mi licenziano tutti questi operai che fino a 5 minuti prima pensavano di essere una potenza e di poter trattare da pari a pari il padrone, la struttura stessa del sindacalismo va in frantumi. Qua, come dire, noi nella provincia italica abbiamo questa esperienza, purtroppo o per fortuna, comunque esperienza da studiare e da valutare da un punto di vista della preparazione rivoluzionaria. Il nucleo del sindacalismo di base, uno dei due nuclei del sindacalismo di base, perché in Italia esiste il problema del pubblico impiego, ma lasciamo perdere in questa fase qui, è stato fatto da quella parte di sindacalisti che più o meno in buona fede, ma sicuramente generosamente, ai tempi dei famosi consigli di fabbrica, ai tempi delle cosiddette sinistre sindacali, fabbrica per fabbrica pensavano di essere la potenza con la quale il padrone doveva scendere a patti subito. I famosi consigli di fabbrica dell'Alfa Romeo, quelli della Fiat, la stessa esperienza dell'Olivetti, caspita. Sembrava che ci fosse, tra virgolette, il potere operaio. Ma nel momento in cui licenzi tutti, la base per poter contrattare decade. E questa è un'altra lezione enorme che comunque la sinistra comunista, il Partito Comunista d'Italia, fin da tempi non sospetti, nel momento in cui si dovevano criticare i consigli di fabbrica dell'area torinese, ha sempre messo in luce. Il problema non è il potere apparente della contrattazione della fabbrica, il problema è che il potere si decide altrove. Ma lasciando perdere questa esperienza, tornando al concreto dell'altro ieri, quel che rimane del sindacalismo combattivo ha organizzato delle lotte che sono state progressivamente di retroguardia, ma che da un punto di vista simbolico hanno comunque rappresentato degli aspetti di resistenza al riformismo ufficiale. Diciamo che è grazie a questa esperienza che, perlomeno da un punto di vista sindacale, quella componente di proletariato insofferente alle condizioni disumane di lavoro dal 2010 in poi, nel settore delle cooperative, nel settore della logistica, nel settore abbandonato da sindacalisti ufficiali, hanno trovato un'esperienza organizzativa, nel bene e nel male dell'esperienza di questi compagni, tra l'altro, che purtroppo da un punto di vista sindacale sono degli generosissimi combattenti, da un punto di vista politico fanno dei pasticci che metà bastano, come vedremo poi. Comunque, tutto quello che i padroni, che poi c'è l'altra questione importante, i padroni rompono i patti e il sindacalismo istituzionale e i partiti dei lavoratori appoggiano e favoriscono non solo le leggi che diminuiscono pensioni, salari e stipendi e peggiorano le nostre condizioni generali di esistenza, ma soprattutto quelle che reprimeranno tutte le lotte che sfuggiranno al loro controllo, rimanendo nell'ambito della penisola italica. Noi ci lamentiamo dei decreti Salvini, delle leggi dell'ultimo governo di centrodestra, ma in realtà il processo di repressione non è mai stato un monopolio della destra, è sempre stato un simpatico intreccio tra governi di centrodestra, di centrosinistra, opposizioni fintamente di sinistra, il cui scopo era comunque in ogni caso garantire la pace sociale. Adesso l'esperienza delle battaglie contro le istituzioni, per la memoria storica che è rappresentata dal nostro partito, comincia dall'immediato dopoguerra, perché proprio nell'ambito del cosiddetto sindacalismo, nel momento in cui l'Italia, sballottata nello scontro imperialista, la borghesia italiana cambia cavallo, liquida il fascismo e diventa democratica, con l'appoggio del Partito Comunista Italiano e in misura minore, per scarso peso numerico, non per non volontà politica, del Partito Socialista, interviene duramente su quello che era il sindacalismo che stava risorgendo dopo come dire, l'anestesia del sindacalismo fascista. E c'è un simbolo, il simbolo è proprio che la Confederazione Generale del Lavoro diventa Confederazione Generale Italiana del Lavoro. L'esperienza della nazionalizzazione fascista viene presa in pieno dal sindacato e sulla pelle delle lotte che gli operai del nord, perché lì c'era una maggiore concentrazione industriale, fanno dal 43 al 45 utilizzando innanzitutto l'energia per difendere le loro condizioni, poi purtroppo per l'intervento degli stalinisti utilizzando l'energia per salvare in un certo senso l'economia nazionale, vengono coinvolti in questa trasformazione sindacale. Ma a Salerno, proprio nel momento in cui gli stalinisti e tutti gli altri vogliono che il Comitato di Liberazione Nazionale costruisca questa maledetta CGIL con la I di Italia, con il patto per cui, con il famoso manuale che dopo si chiamerà Cencelli, 30 posti sono del PC, 30 posti sono quella che era la DC, 30 posti del PSI, 10 posti di tutti gli altri, e spiace dirlo, una parte è stata riservata anche agli anarchici che non sono stati, cioè che sono stati zitti, per cui hanno liquidato anche le loro esperienze. Gli unici che si sono opposti sono stati a Salerno compagni che avevano ancora la memoria e l'esperienza del sindacato vero, che hanno cercato disperatamente di ricostituire la Confederazione del Lavoro senza la I. Ma, come sempre, sono rapporti di forza. Cioè, non era una situazione rivoluzionaria, il peso della controrivoluzione era enorme, ma l'esperienza dei compagni della sinistra hanno fatto sì che si dovesse comunque combattere. Questa, a proposito, è una delle tante memorie che sfuggono a tutti quelli che si chiamano sedicentemente internazionalisti. Tutti quelli che si chiamano internazionalisti, personalmente non ho ancora capito perché, non mi riferisco a Battaglia in questo caso, ma a tutti quelli dalla pagina marxista al gruppo operaio rivoluzionario all'ultimo cagnotto che pensa di essere antistalinista. Il problema grosso di questo personale politico è che volutamente non vogliono mantenere memoria, perché mantenere memoria vorrebbe dire mettere in discussione la loro formazione politica, poiché il partito rivoluzionario non lo improvvisi sui bisogni dell'oggi, ma è soltanto il restauro, la riorganizzazione di un filo rosso incandescente che passa attraverso il mantenimento della memoria. Poi, lasciando perdere questa parte di polemica, ma che è comunque sempre bene ricordare, il sindacalismo di classe non è la sinistra del 68-69 o la caricatura dell'operaismo, è un qualche cosa che deve essere ancora, tra virgolette, restaurato. In ogni caso, lo Stato esercita la continuità del dominio borghese in modo democraticamente dittatoriale o dittatorialmente democratico, a seconda della necessità di contenere le potenzialità rivoluzionarie della nostra classe, alternando le forme con le quali mantenerci schiavi, utilizzando comunque e sempre i partiti operai, i partiti riformisti. Questa è quello che in altri termini si chiamerebbe dogma, ma che da un punto di vista scientifico è un postulato che tra l'altro viene estratto dalla realtà dei fatti della storia del mondo moderno. Cioè, nel momento in cui esplode la crisi rivoluzionaria, certo, arriva il fascismo, arriva la conservazione più bieca, arriva la disarticolazione militare del fronte proletario, ma soprattutto arriva l'organizzazione del riformismo. Noi siamo troppo italiani, troppo provinciali. In realtà la controrivoluzione non si gioca in Italia nel 21-22 nella marcia su Roma. La controrivoluzione si gioca in Germania nel 1918, quando la socialdemocrazia sperimenta, o meglio, quando la borghesia sperimenta l'uso della socialdemocrazia per falcidiare, irregimentare, reprimere apertamente il movimento rivoluzionario e la classe operaia. Perché ricordiamoci sempre che se la repressione politica riguardasse soltanto noi come ceto politico, come illusi innamorati della rivoluzione comunista, non ci sarebbero problemi, saremmo degli illusi idealisti come tanti altri ce ne sono e ce ne saranno. Quello che a noi interessa sono le condizioni generali di vita del proletariato. Possiamo fare un discorso per assurdo: se fossero morti soltanto Rosa Luxemburg e tutti gli altri, ma nel contempo le condizioni del proletariato avessero aperto, come dire, il paradiso in terra, metteremo il cuore in pace, mettiamo il fiore sulla tomba dei compagni, ma si tira avanti. Il problema è che quel martirio è stata l'espressione della repressione più generale della classe, da cui facciamo fatica a tirarci fuori ancora adesso. Questa è un'altra, tra virgolette, precisazione necessaria. Ma quindi di fronte a tutto questo cosa possiamo fare? Andiamo a casa, ci dedichiamo alla contemplazione delle orchidee selvatiche? No, purtroppo no. Cioè, noi fin dai tempi di Karl Marx siamo stati colpiti dal virus, che non è quello della SARS, ma da quello che Marx chiamava il demone, non possiamo esprimerlo in una maniera differente, la disgrazia di essere all'avanguardia comunista, che non puoi andare a casa. Quindi devi continuare a riflettere ed operare nel seno della nostra classe, perché noi, anche se magari non facciamo un lavoro manuale, facciamo un lavoro differente da quello immediatamente produttore di plusvalore, siamo comunque parte di questo maledetto proletariato e da qui non possiamo scappare. Le vie quali sono? Quindi, problema fondamentale, collegando la storia delle lotte di difesa economica con quest'ultima esperienza, bisogna con la forza dei fatti spiegare con pazienza ai nostri fratelli di classe che per quanta determinazione ci si metta nelle singole vertenze e nelle vertenze di categoria, per quanta solidarietà si riesca ad ottenere da chi è già comunque in guerra con la borghesia, per resistere si deve cercare di allargare ed estendere le lotte, coinvolgendo con obiettivi comuni e praticabili il maggior numero di lavoratori, occupati o disoccupati, maschi, femmine, cioè proletari in questa condizione sociologica del tempo della crisi, che assume la difficoltà. Probabilmente è stato facile organizzare scioperi in fabbriche di 10.000 operai. Oggi noi dobbiamo organizzare scioperi, i lavoratori devono cercare di organizzare scioperi in una situazione assolutamente dispersa sul territorio. Siamo ancora qua, gli effetti strutturali della crisi economica. Oggi siamo ritornati ad una situazione di poche fabbriche con pochi occupati e con un numero di lavoratori invece che è immensamente disperso nei territori, con delle condizioni di lavoro che non sono le stesse dell'operaio metalmeccanico tuta blu, il mito del 68-69. E noi dobbiamo pensare a tutte quelle migliaia di lavoratori, di proletari precari, non per loro scelta, ma per le condizioni nelle quali il lavoro è stato precarizzato. Qui noi parliamo di repressione da un punto di vista della politica giuridica, quindi della multa immediata, ma in realtà la repressione comincia nel momento in cui quei maledetti partiti stabiliscono nelle sedi loro competenti, che vengono poi ratificati dai simpatici parlamenti, le condizioni per cui il costo del lavoro deve essere abbassato. E questa è la repressione che comincia. Quindi il costo del lavoro lo abbassi perché lo rendi precario, perché lo rendi indifendibile, perché suddividi in 150.000 categorie e sottocategorie con particolarità contrattuali, e ovviamente tutte le sinistre stanno zitte, tutti i sindacati stanno zitti, anche perché la loro ragion d'essere è poi essere proprio nel mare di queste corporazioni. Più il proletariato viene diviso, più viene agevolmente maneggiato, più il sindacalismo istituzionale può agire come organo dello Stato borghese mantenendo queste sorte di mediazioni. Una delle grandi ideologie del modo capitalistico di produzione è quello della professionalità, quelle cagate che sentiamo sempre al telegiornale. Licenziano gli operai, ma per forza non sono professionalizzati. Ma cosa vuol dire? Nel momento in cui il capitale instaura la più bieca divisione del lavoro, in cui nessuno è professionale di niente, perché l'unica professione è imparare a schiacciare tre bottoni, non esiste la professionalità. Questa è proprio la ideologia borghese. Anzi, più va avanti la divisione del lavoro, più perdi in professionalità. Adesso, da un punto di vista soggettivo, io posso anche sogghigno nel momento in cui nelle arti sanitarie i ruoli sono demandati sempre più alle macchine. Dal punto di vista della diagnostica medica, non hai più da fare la clinica. Se mi arriva un cane con la tosse lo ascolto, ma se voglio capire qualcosa oggi gli devo fare gli esami del sangue e quindi utilizzare le macchine. Sono un aggeggio che lavora per una macchina, tanto quanto mio nonno che sapeva fare le viti a mano oggi è soppiantato da una macchina. Questa è la, come dire, una roba che probabilmente chi mi ascolta l'ha sentito almeno 70 volte, però la questione è proprio quella. Quindi la professionalità è soltanto un'arte per creare delle divisioni tra i singoli e le singole lavoratori e lavoratrici. In ogni caso la prospettiva non può essere quella che la generalizzazione delle lotte di difesa. Una generalizzazione che non dipende solo dalla volontà soggettiva delle avanguardie di lotta. Queste possono organizzare bene se la classe, come riprenderà ad allargare le lotte. E qui la questione della repressione è proprio quella, perché la repressione si esercita oggi su settori qualitativamente e quantitativamente marginali, ma proprio da un punto di vista simbolico. Sembra proprio l'attuazione del famoso proverbio misogeno: se vai a casa picchia tua moglie e tu non sai perché, ma lei sì. Qui che necessità c'è, da un punto di vista oggettivo, di comminare multe e sanzioni a 10 facchini che fanno un picchetto per un'avvertenza che richiede soltanto il riconoscimento di condizioni di lavoro peraltro stabilite da un contratto nazionale, o il proprio diritto di rimanere come tale in un cambio appalto? C'è una sproporzione che apparentemente è inspiegabile, ma in realtà è proprio quello, cioè blocchiamoli subito prima che diventino grandi. Questo è il valore simbolico e che ci muove all'incazzatura. Quindi la prospettiva deve essere quella della ripresa, della generalizzazione delle lotte di difesa economica, e che si dovrà dare obiettivi e una struttura organizzativa che tendano a rompere gli interessi corporativi delle categorie nelle quali siamo divisi. Come sempre, l'emancipazione e la lotta ha bisogno di una chiarificazione anche all'interno del proletariato. Il proletariato in sé è in questa condizione. L'organizzazione, la lotta può dargli le energie per la prospettiva di un cambiamento, ma solo quello. Ripresa e generalizzazione che materialisticamente e non per nostra volontà non sono vicine. E purtroppo, come dimostra proprio la parabola delle lotte cui sono stati costretti i lavoratori oggi vessati dallo Stato, procederanno per esplosioni e implosioni, avanzate e rincuri. Anche questo è un altro mattone di materialismo che noi dobbiamo difendere con le unghie e con i denti, in questo caso anche rispetto a quelli che hanno lo nostro stesso nome. Cioè, noi non possiamo pensare che il sindacato di classe possa essere costruito a tavolino unendo gli uomini di buona volontà, soprattutto se hanno in tasca una tessera simile alla nostra. Questa è un'utopia assolutamente infantile, è una parola stupida, adolescenziale. Cioè, noi siamo bravi, facciamo il sindacato e costruiamo il sindacato di classe, ma non è così. Cioè, il sindacato è l'espressione di una capacità di organizzazione, di lotta della classe. Poi tu da rivoluzionario agisci in questo movimento, cerchi di favorire una determinata consapevolezza. Se poi vieni dalla sinistra comunista dovresti fare anche degli altri ragionamenti che qui non è il caso di fare, ma sicuramente non costruisci il sindacato come se fosse il meccano. Poi c'è un'altra questione che è proprio materialista, cioè l'abisso della controrivoluzione, come ha trasformato il sentimento del proletario anche come membro della classe in sé, rispetto a quello che era 50, 20, 30 anni fa in questo andamento generazionale. Cioè qua purtroppo bisogna riprendere delle esperienze che non sono la traduzione del tanto meglio tanto peggio, ma che sono la traduzione del come fare a come si rimetterà in moto da un punto di vista economico la resistenza proletaria. Non vogliamo rimanere in Europa, per carità, guardiamoci fuori. Allora, enormi lotte di proletari ci sono in India, in Bangladesh, Cina. In Cina. Certo, ma queste enormi energie organizzano delle resistenze, ma purtroppo che cosa possono sedimentare? E questo è un altro punto di domanda da farsi. Sono esplosioni che vengono riassorbite. Ma vi ricordate adesso? Sicuramente Solidarność, che è stata una grande lotta operaia in Polonia, utilizzata dal riformismo e tutto quanto, ma una grandissima lotta operaia. Quello che io mi ricordo invece sono le lotte degli anni, della fine degli anni 80, dell'inizio degli anni 90 in Corea. Cazzo, c'erano dei filmati di fabbriche occupate con i proletari che buttavano giù i pentoloni di olio bollente, sembrava di vedere le scene del Medioevo, ai poliziotti che entravano a sgombrare sparando. E tutte queste esperienze purtroppo non ha sedimentato ancora niente, perché appunto la questione è esplosioni e implosioni, avanzate e rinculi, perché l'energia da recuperare, il tempo da recuperare per il momento è pesantino. Dunque, eppure una sola è la strada, la riorganizzazione di un sindacato che sbaragli nei metodi, nei contenuti, nelle forme organizzative il sindacalismo istituzionalizzato. Non è la costruzione del sindacato, è la riorganizzazione del sindacato, che è una cosa completamente diversa. Dall'esperienza e dalle parole d'ordine, cerchi di lavorare per un'organizzazione decente. Ma la vicenda della moderna lotta di classe in due secoli di storia ha confermato quanto noi comunisti abbiamo proclamato nel manifesto, che rimane non la poesia, ma è la dichiarazione di guerra permanente al capitale. Ogni lotta economica è una lotta politica, anche se non immediatamente rivoluzionaria. Questo non vuol dire che al sindacato si debba attribuire una funzione politica da partito operaio o che dal sindacato possa nascere l'ennesimo partito operaio o che dalla lotta sindacale nasca la rivoluzione, per non farla più lunga di così, ma che ogni scontro che nasce per difendere le nostre condizioni di vita e di lavoro non si esaurisce sul solo terreno del confronto tra il padrone e l'operaio. Assume bensì una dimensione nella quale solo la forza sociale extraistituzionale e anti-istituzionale può, come deve, imporre significativi, benché transitori, vantaggi. E qui è sempre la questione dell'ostinazione comunista. Per certi versi non c'è niente di nuovo, ma bisogna sempre ribadire la necessità di quello che la storia stava insegnando e insegnato e che il riformismo ha buttato nel cesso. Quando appunto nel manifesto si parla della famosa ogni lotta economica è una lotta politica, intanto viene messo nel capitolo borghesi e proletari e non proletari e comunisti, che qui è già significativo. Ci racconta dunque quella che è la vita reale del proletariato immediatamente prima che possa avere una organizzazione politica. Quindi già con quell'esperienza storica, soprattutto del movimento inglese, si vede che questa lotta economica, che non ha ancora una struttura di un carattere permanente da partito politico, impone delle scelte politiche alla classe avversa, ma come dice il manifesto, la forza, nel caso specifico della legge per la riduzione dell'orario del lavoro, riesce a imporlo con la forza degli scioperi, con la forza extraistituzionale, perché per fortuna non c'erano parlamentari a mediare a quei tempi, e sfruttando le contraddizioni della borghesia riesce a imporre con la propria forza quell'obiettivo, che rimane sempre un obiettivo transitorio, perché l'orario di lavoro, cazzo, ufficialmente oggi abbiamo le 8 ore, ma in realtà tra gli straordinari e mica gli straordinari se ne lavora ben di più. In Francia c'era stato il famoso governo del Fronte Popolare degli anni 80 che, oh cazzo, lavorano 35 ore, minchia, dopo 6 mesi sono lì che ne lavorano 48, cioè sono tutte cose formali, transitorie appunto. Ma il compito di questo transitorio è dimostrare una forza, un potenziale di eversione, e soprattutto l'extraistituzionalità permette l'allenamento al superamento politico del modo di produzione capitalistico. È per quello che il terreno della difesa economica diventa uno scontro politico tra i rivoluzionari e tutto il resto dell'universo. Proprio perché il resto dell'universo, sfruttando la tendenza spontanea all'adattamento di un proletario che non vuole fare la rivoluzione, sarà costretto a fare la rivoluzione, si adagia sulla conquista. L'illusione riformista è proprio quella di dirgli: ce l'avrai per sempre, avrai l'illusione che tu stai bene, i tuoi figli staranno bene, i tuoi nipoti staranno ancora meglio di te, avrai l'ascensore sociale nella scala, come cazzo si chiama, la scala sociale, no? Quando si leggono i gazzettieri borghesi sugli effetti della crisi, tutti che ti fanno questo discorso che sembra che traballino, per la prima volta le condizioni dei nipoti sono peggio di quelle dei nonni, è così, siete voi che ci avete illuso che la condizione del miglioramento fosse costante ed eterno per sempre, no, la realtà è questa. La forza del movimento può imporre una conquista che è transitoria. Compito dei comunisti è rompere i coglioni a tutti, come al solito, dicendo: attenzione, conquistiamo, siamo contenti, ma quel che importa è un qualcos'altro, è la lotta per il potere. In questo nostro caso, comunque, oggi, 2020, in Italia come nel mondo, lavorare dunque per riorganizzare un'organizzazione permanente di difesa economica e sociale che abbia la forza di rompere ogni laccio e lacciuolo dallo Stato e dai suoi partiti sarebbe già da solo un atto politico necessario, oggi come domani, per allenare la nostra classe allo scontro con la borghesia. Qui la questione è, diciamo, generale, che parte dalla contingenza. La contingenza è che l'assemblea indetta dalla parte politica del SICOBAS era il ritiro del decreto Salvini, il fronte anticapitalista, diciamo una necessità politica legittima ma contingente. Il problema è la questione che noi comunisti abbiamo il dovere di ristabilire qual è il metodo corretto. E il metodo corretto è giusto opporsi a queste leggi del cacchio, ma lo strumento per opporsi alle leggi del cacchio non è che il sindacato diventi il partito politico che rappresenta le istanze del povero lavoratore. No, il problema è che l'esperienza storica ti dimostra che l'unico atto politico che puoi fare sul fronte della lotta sindacale è rafforzare il sindacato. Certo che ovviamente si va a salti, a avanzate rincure, non è un processo continuo, ma i comunisti devono avere la lucidità di ricordarlo e di porlo in pratica, proprio per evitare di deviare le energie potenziali verso falsi obiettivi. Cioè, non è che se il fronte popolare di tutti i rimbambiti riesce a far ritirare il decreto Salvini, il movimento operaio fa un passo in avanti in più, no? Rincura. Perché la reale forza è quella di estendere le lotte. Quindi sarebbe molto più vantaggioso per tutti che il sindacalismo si rafforzasse, concentrasse le energie nel creare delle buone avanguardie operaie da un punto di vista sindacale, sfuggendo alla trappola di una politicizzazione. D'altronde è anche vero che comunque anche questa esperienza sindacale è un'esperienza particolare, perché ha coinvolto solo ed esclusivamente un settore disgraziatamente neanche maggioritario di lavoratori della logistica coinvolti nel sistema delle cooperative, degli appalti e dei subappalti, e purtroppo non si riesce a uscire da lì. Tanto è vero che non è che uno lo dica contento e dire ci avevamo ragione. Purtroppo c'è stato lo sciopero Amazon ieri e l'altro ieri, che è tenuto stretto in mano ben bene da CGL e CISL e UIL. Cazzo, benché in quella situazione ci sia un intreccio di cooperative contro cooperative, minchia di cooperative, nel quale uno spazio per l'organizzazione di una lotta reale comunque ci sia, ma ripeto, non è la volontà che ti aiuta. La realtà è questa, ma i comunisti hanno il dovere di dire cazzo, sgasiamoci un attimo e concentriamoci nelle lotte che si dovrebbero fare. Contenuti e forma, perché anche qui noi non possiamo pensare al sindacato di classe come la riedizione del sindacato della federazione delle categorie. Noi dobbiamo ripensare a delle strutture di base che appunto coinvolgano i territori, proprio perché in questo momento c'è una devastazione della frantumazione del fronte dei lavoratori che richiede un'azione a tutto tondo, come si diceva una volta. Però non è di adesso, di oggi che dobbiamo parlare del sindacato che vorremmo. E l'importante è ricordarsi che la riorganizzazione del sindacato così inteso sarebbe già un atto politico. Risulta dunque velleitario, demagogico e illusorio promuovere appelli contro questa o quella legge antipopolare. Ancora peggio, appelli contro questo o quel governo antioperaio, alimentando così la concretezza dell'ideologia borghese che lo Stato abbia nel governo, espressione del Parlamento liberamente eletto a suffragio universale dal popolo, un centro direzionale libero di agire a favore o contro le istanze dei lavoratori. E qui è un altro dei chiodi dell'epopea della mistificazione della borghesia che ha fatto proprio il riformismo. E noi purtroppo siamo nel 2020 e ci abbiamo sulle spalle non soltanto la mitologia della sconfitta della rivoluzione in Russia e quindi della rivoluzione internazionale partita dalla Russia. Sarebbe poco. Noi abbiamo una controrivoluzione che ha completamente trasformato quelle conquiste politiche di quel periodo. Noi viviamo nel mondo in cui ci esaltano con la Costituzione più democratica del mondo, ma non è la questione della Costituzione democratica in sé che ci fa incazzare. Il problema è che attraverso questo messaggio riparte il messaggio della natura dello Stato borghese come espressione dell'unità della nazione. Quindi è un trionfo maledettamente concreto della dittatura della borghesia su di noi. Che quindi, ripeto, anche in queste espressioni, tra virgolette, spontanee dell'economicismo operaio, il riflesso è, e c'è la legge antipopolare, facciamogliela ritirare. Certo, nessuno vuole che venga mantenuta, ma è sempre la questione della modalità. Cioè, intanto per ritirarla dovresti mettere lo sciopero totale per almeno una settimana, dovresti avere questa forza sindacale. Altrimenti l'altra questione è: un governo può decidere una legge più a favore, una legge meno a favore? Certo che può deciderlo, ma come espressione del mantenimento del dominio della borghesia. Ma sempre nell'esperienza contingente, questi decreti, nella fattispecie, lasciando perdere la continuità della repressione che parte dalla famosa legge del codice Rocco, che è passata bella e bella nella Costituzione, nelle attuazioni delle leggi Scelba, nella legge reale, cioè in tutto questo simpatico susseguirsi di leggi che non abrogano le precedenti ma le peggiorano, per arrivare poi alla fine dei miserandi e schifosi decreti Salvini, che sono l'eredità di una legislazione che passa da quella vecchia legge che si chiamava il ministro di Craxi, quello che andava a fumare le canne Martelli. Da Martelli, Bossi Fini anche. Napolitano. Salvini e quell'altro pirla che c'era prima, e adesso ci abbiamo, abbiate pietà di me ragazze, la parità dei sessi, ci abbiamo il ministro dell'interno, la signora dottora avvocato grande ufficiale Lamborghese, che ha messo mano alla modifica dei decreti, perché loro sono gente di parola. Certo, che cosa modificano? Modificano quelle parti che sono le più meschine, che riguardano il trattamento di chi aiuta gli immigrati a venire qua. Non c'è una parola che sia una su tutto quel che è nel decreto Salvini a proposito degli immigrati, ma che non riguarda solo gli immigrati, di che cosa vuol dire se ti beccano a fare un picchetto. Quella parte lì non si dice niente. Tutti i peggioramenti da un punto di vista economico rispetto alla repressione, anche lì sotto zero, non viene fatto un cazzo, perché è quello che gli interessa. E veniamo a quest'ultimo punto, che è la curiosità della repressione del 2020, nel momento in cui effettivamente grosse lotte non ce ne sono. La monetizzazione. Qui siamo veramente al borghese che è il mercante, non capisce nient'altro che i soldi. Per cui se tu fai uno sciopero, vieni accusato di fare un boicottaggio di tipo economico, di causare un danno, ed è vero, perché è quello che tu vuoi fare, ma allora io ti chiedo un risarcimento. Ti faccio pagare. Perché non è che tu entri nell'ordine d'idea che se io sto facendo uno sciopero perché ho una rivendicazione rispetto a quello che è, secondo voi, un diritto, e quindi ho bisogno di avere più soldi, di avere più garanzie, di spaccarmi meno la schiena. Qualsiasi cosa, è l'unica cosa che devo fare per fartela capire, è bloccarti la produzione. Ma queste infamie, che non sono ufficialmente legislative, sono, è come se fosse una specie di diritto consuetudinario barbarico, no? Cominciamo con una sentenza, ne mettiamo un'altra e poi diventa la legge comune. Per cui alla fine dell'avvertenza tu devi risarcire il danno che hai causato. Anche qui non è nuovo, e c'è l'azione veramente terrificante del sindacalismo istituzionale. Sempre per la serie che purtroppo non mi ricordo il dosaggio degli antibiotici, ma dello sciopero del 2011 dei ferrotranvieri a Milano, sì, che da una vertenza di 6 ore sono riusciti a bloccare per un giorno intero senza preavviso il trasporto. Che bello. Senza ottenere niente, maledizione, e quindi essendo ricattati con la storia dell'interruzione del pubblico esercizio, con una combinazione di multe, c'era già l'euro, in migliaia di euro. Li hanno massacrati. E chi è che è intervenuto? È intervenuto CGIL e CISL e UIL, che hanno detto: ragazzi, ci pensiamo noi, paghiamo noi, ma voi basta. Da quel momento lì di scioperi veri, quei disgraziati di Autoferro Tranvieri non ne hanno potuto fare uno che sia uno. Questo per dire che le cose vengono comunque da lontano. E oggi appunto c'è l'infamia del cercare di strangolare fin da piccola la lotta di classe economica nella culla, c'è anche quella di farti pagare i danni. Per cui effettivamente in questo momento l'unica situazione di organizzazione che ha messo in piedi queste lotte, se dovessero pagare tutte le multe contemporaneamente, chiuderebbero per bancarotta. Cioè, è una di quelle robe che uno dice, effettivamente però è strana la storia del capitalismo. Vi ricordate Al Capone? Cazzo, Al Capone non l'hanno mica beccato, certo, per le sparatorie, per l'amministrazione, per l'evasione fiscale. Quindi, ragazzi, stiamo attenti, anche noi nel nostro piccolo, cerchiamo di avere una contabilità ordinata, se no vengono a prendere quelli della Guardia di Finanza e non certo la certo. Dunque, no, certo. Allora, questa tesi del centro direzionale è una tesi che è stata tanto cara, è stata cara tanto al riformismo nazionalsocialista dei defunti PSI, PC, DC, MC, MSI, diretti di Rescini, che era la famosa frase di Nenni, sempre a proposito di ricordare le cose più stupide: entrare, governo di centrosinistra, entriamo nella stanza dei bottoni, non ha trovato niente da schisciare. E lì questa mitologia. Quanto al riformismo armato, anche lì non basta usare una rivolterra per essere un rivoluzionario. Anche quelli là si illudevano di colpire il cuore dello Stato. Il problema è che lo Stato non ha cuore, lo Stato è una specie di polipone. C'è il momento nel quale, attraverso il processo insurrezionale, arrivi a un centro nevralgico, ma tu devi pensare a tutto il resto. Puoi colpire un generale, puoi colpire un ministro, puoi abbattere un governo, ma se non disarticoli, distruggi la struttura della tripartizione del potere legislativo, esecutivo e giudiziario, non vai a casa. La rivoluzione è un processo ben più profondo, che prevede il taglio della testa, ma soprattutto nel mente la preparazione di un corpo nuovo, che è la cosa più difficile. Poi c'è un'altra menata che è contingente rispetto alle proposte della parte politica di cui ci occupiamo: prospettare poi un fronte anticapitalista che riunisca tutti. In un gran paese di sigle, siglone, siglette, con il minimo comune denominatore di una carta di lagnanze da povera vittima dell'ingiustizia del capitale, più o meno incazzate, nell'illusione che una presumibile unione numerica faccia la forza di un qualsivoglia gruppo di abili attori di una concreta politica comunista, che con intelligenti manovre ed espedienti tattici possa volontariamente invertire il tragico momento storico controrivoluzionario in cui stiamo vivendo, non è solo demagogico, velleitario e illusorio, ma è un autentico boicottaggio del processo dinamico e pratico del processo di crescita di un'autentica consapevolezza politica rivoluzionaria della nostra classe. Qui si entra proprio nel nocciolo dell'opportunismo. Come nella nostra esperienza storica abbiamo più e più volte ribadito, l'opportunismo, a parte quello riformista, classico, è un atteggiamento nel quale si può cadere in perfetta buona fede, cioè è l'illusione di poter fare più velocemente o con meno fatica il lavoro e il percorso che la necessità storica invece ha tracciato e che devi mantenere e che devi lavorare per. Non ci sono illusioni, non ci sono scorciatoie. Noi è inutile, ho messo prima l'esempio del gran pavese di sigle e siglette, cioè ciascuno c'ha la sua bandierina, ma in realtà non è una bandiera unica, tutti hanno la loro piccola posizione, ma la riprova poi anche, come dire, del fallimento di questo tipo di ragionamento, l'abbiamo avuto proprio provando, cioè, come al solito, il comunismo è una scienza, gli esperimenti sono guardarsi in giro e vedere cosa succede. Perché magari uno dice, no, ti stai sbagliando, sta succedendo qualcosa di diverso. Benissimo, non è così. Purtroppo nella parabola implosiva del movimento sindacale dei facchini e dintorni, la parte politica sta facendo di tutto per accelerare questo processo. Lo sta facendo inconsapevolmente. Nell'illusione di creare una forza solidale, si sono state convocate almeno 3 assemblee con questo scopo del fronte anticapitalista. In realtà i partecipanti a questi momenti assembleari, da un primo momento in cui effettivamente una forza di lavoratori c'era, era presente, era attiva, all'ultima, si è vista completamente scendere questa partecipazione e rimanere costante quella di, mettiamoci dentro anche noi, del ceto politico. E quindi anche questo diventa risibile, perché è inutile mettere insieme il marxista-leninista con il comunista lavoratore, mettiamoci dentro anche l'internazionalista più o meno sfigato, più o meno furbone, se non esiste un lavoro politico reale di organizzazione rivoluzionaria. Anche qui, diamogli il beneficio della buona fede. Non è che in questa maniera tu riorganizzi l'embrione del futuro partito di chissà che cosa. No, il difetto, come sempre, sta nel manico dell'opportunista, nel cervello dell'opportunista, che se ne frega altamente della realtà di che cos'è un partito. Quindi, in ordine sparso, teoria, principi, programma, tattica, organizzazione, cioè un autentico pacchetto di organizzazione di classe. No, l'opportunista dice, dobbiamo avere come fare a risalire la china, mettiamo insieme Tizio, Caio e Sempronio, lasciamo perdere quel che ci divide, teniamo buono quel che ci unisce. Ma quel che ci unisce cos'è a quel punto? Solo la lagnanza. Dopodiché, nell'ambito delle assemblee, vedi che nessuno vuole unire niente, perché ci sono la compagnia dei, in latino quando uno voleva un voto c'era votum petere, quindi i petenti voti, che poi ricordarsi che potrebbe essere anche qualcosa per cui c'hai farima confetente, che confetente c'hai il trotschista che vuole presentare la sua lista, il marxista leninista che vorrebbe presentare la sua lista ma non ce la fa. E piattaforma. Potere, no, adesso come si chiama? Potere al popolo. Potere al popolo, sì. E poi quella quelli termine. Che ti schifano perché loro non vengono, perché hanno altre cose da fare. E questa è già una bella simpatica categoria dalla quale senti, a me personalmente poi mi vengono le inversioni di stomaco, l'esaltazione della Costituzione, dell'esperienza dei partigiani che ci hanno dato la Costituzione, che all'articolo 7,12 garantisce questo, questo e quest'altro. Ma sono anche stati fischiati in assemblea. Per fortuna. Questi qui sono non stati soltanto dire no, no, questo. Quello è il pubblico. Poi faccio io un intervento. Quello è il pubblico. Mettere forse un po' di più. Quello è. E poi, ripeto, ci sono altri disgraziati, cioè gli altri disgraziati sono quelli che guardano il loro ombelico. Importante, per carità, ma il mondo dello studente che esalta il reddito, il lavoro ogni tanto, ma soprattutto il reddito, quindi i cascami dell'autonomia operaia di vecchio stampo, che non, nel momento in cui c'è il proletariato diffuso non lo riconoscono e scappano verso il riformistico desiderio che lo Stato, in fin dei conti è una buona mamma e un buon papà, ci possa dare la mancia. Con la demagogia, se tutti pagassero le tasse e se soprattutto le tasse le pagassero i padroni, faremmo pagare la crisi ai padroni e staremmo tutti bene nel paese del Bengodi. come fai a mettere insieme tutte queste cose con la realtà di reale lotte proletarie che si fanno il culo così? Punto di domanda. Direi che posso troncare anche qui la relazione, se i compagni vogliono aggiungere. Se c'è solo questo. Prego, sì. Per il momento non abbiamo messo la dittatura, quando sarà il momento ti dovremo anche fucilare. Eliminare, magari. Insieme alla morte. Non preoccuparti. Lo sappiamo già. Sei già preparato, bene. E se stavolta loro fossero più veloci di noi? Non più veloci di noi. Torniamo in piedi. Anche questo potrebbe accadere. Io volevo solo dire due cose, visto che sono dei psicobas e vabbè. Penso che qualsiasi compagno che ragioni minimamente sa benissimo che il sindacato ha dei limiti forti e un sacco di contraddizioni in sé. Quindi se poi qualcuno del nostro sindacato, sto parlando dei grandi capi, ha altre, come dire, altre idee o altre cose belletà. Che belletà, è un suo problema, cioè sto parlando dal mio punto di vista, quindi il sindacato però, bisogna dire la verità, è anche un mezzo, io lo vedo solo come un mezzo, prima di tutto per poter fare le lotte, perché in questo momento senza il sindacato le lotte si fanno delle azioni individuali, che vabbè, sono, diciamo, non avranno questa importanza, ma che io appoggio anche, vogliamo così, oppure le uniche lotte che si possono fare sono attraverso il sindacato. E quindi è un mezzo per, come dire, stare anche con la classe, cioè con i lavoratori che sono sfruttati. Secondo me il sindacato ha solo questo scopo e basta, perché solo lottando con questi sfruttati, stando vicino ai picchetti, agli scioperi, prendere bastonate con loro, che in caso, soprattutto magari per voi, no, che giustamente siete un partito, quindi avete tutto un modo di pensare un pochino diverso dal mio, si può entrare a contatto con loro. Cioè quando veniva Stefano con me ai picchetti, e magari si doveva passare ore a aspettare che prima la polizia arrivasse, era l'unico momento in cui il lavoratore che era lì con te e vedeva che tu eri lì con lui, ti ascoltava. Che poi uno sia comunista, anarchico, così, non è un problema. Però tu eri lì con lui e il lavoratore ti ascolta, inizia a ascoltarti. E quindi è un mezzo anche, diciamo, per poter in alcune occasioni far politica da un certo punto di vista. Poi può non succedere niente, può succedere qualcosa. Da come vedo io quello che sono tutti i lavoratori che conosco, che vengono da tutte le parti del mondo, purtroppo non funziona con delle riunioni magari politiche, purtroppo dico, cioè nel senso che ci abbiamo provato mille volte e non vengono, non sono interessati, anche questi cazzo di riunioni, assemblee che facciamo, come ha detto Andrea, con il fronte unico, così, diciamo la verità, non servono a niente, perché i lavoratori vengono per far piacere ad Aldo Milani, vengono perché sì, dobbiamo andare, poi non ascoltano, non riescono a capire e si torna a casa senza nulla. Quindi dal mio punto di vista non c'è neanche da preoccuparsi di continuare a dire che non servono a niente, perché lo sappiamo perfino noi che non servono a niente, sono un modo per andare in trasferta, per fare così, per stare insieme. Una cosa che vuol dire su Amazon e su altre cose invece, che appunto dicevi che la borghesia si organizza ben bene, anche lo Stato, sì, perché quelli che lavorano ad Amazon, prima di entrare e firmare il contratto, devono firmare che loro aderiscono a un determinato sindacato, che lo decide Amazon. Quindi il Sicobas ci ha provato a entrare, ma non si può, cioè nel senso che se non ti riconoscono come sindacato non puoi neanche dire faccio uno sciopero, perché cioè, purtroppo il sindacato ha, come dire, delle procedure, perché sennò saremmo dei rivoluzionari e non lo siamo. Vuol dire convocare, aprire uno stato d'agitazione, ma tutte queste cose si possono fare se ti riconoscono come sindacato. Per cui ovviamente Amazon se l'è preso la CGIL, punto. Questo era per mettere a fuoco una cosa. Un'altra cosa, cosa serve il sindacato? Anche a, come dire, a non far cadere, non far cadere i lavoratori nella trappola di quelli, come dire, dei padroni. Faccio un esempio concreto perché mi esprimo male come sempre. Adesso le cooperative sembra che debbano chiudere tutte e alle cooperative devono subentrare le SRL. Perfetto, se uno sente un lavoratore qualsiasi dice siamo a posto perché le cooperative che ci hanno sfruttato fino adesso chiudono, subentra le SRL, siamo a posto. Cosa è successo invece? Che le SRL chiamano tramite i centri per l'impiego, cioè tramite Adecco. E quindi non soltanto c'è stato un peggioramento, cioè dalla chiusura alla cooperativa passare ad essere... In questo il sindacato è utile e basta. Perché senza un sindacato che gli dice le cose come stanno, purtroppo il sfruttamento aumenta. Purtroppo. Però potremmo andare tutti a casa e... Non so se sono riuscita a spiegare quello che volevo dire.